Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Io confermo la presenza all'interno della scuola di un numero circoscritto, ma che comunque esiste, di dirigenti che fanno politica, che creano inutilmente allarmismi che poi si riflettono negativamente nelle famiglie e nei genitori. Presidi politicizzati che spaventano le famiglie parlando di scuola allo sfascio e casse vuote. Questa settimana ci siamo divertiti un po', ci siamo fatti infatti un giro di microfono fra vari presidi. Ecco la vita d'inferno di tanti poveri prestigiatori, non la prendano come un'offesa naturalmente, dirigenti scolastici che si devono inventare di tutto per far quadrare i conti, per far spuntare qualche soldo dove proprio non c'è. Liceo Grigoletti di Pordenone. Qui il prestigiatore si chiama Francesco Andreoli. Il mio consiglio di istituto non ha approvato, non ha esaminato il bilancio, proprio perché se da un lato considerava il programma annuale, come più correttamente si chiama, preciso, rigoroso da un punto di vista tecnico, dall'altro però appariva come un programma annuale in cui un quarto delle poste era dato da residui attivi, cioè da crediti nei confronti dello Stato. Soldi che lo Stato vi deve che non vi dà. Soldi che lo Stato ci deve dal 2006 ad oggi. Alla fine del 2008 erano 264.000 euro, oggi siamo sui 300.000 già. Il Consiglio d'Istituto ha fatto una valutazione, se vuole, di tipo etico e ha detto: è immorale che noi ci assumiamo la responsabilità di un bilancio cartaceo, è morale che se l'assuma lo Stato e il Ministero. Per cui non ha approvato, non ha esaminato il bilancio. Noi da allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo immaginato a questo punto di intentare causa allo Stato e abbiamo chiesto il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Ovviamente la risposta è stata che il patrocinio non è possibile trattandosi di Stato contro lo Stato. Insomma, voi che siete parte dello Stato, chiedete a un'altra parte dello Stato di avere i soldi che vi deve. Esatto. Non li ottenete, fate causa, vorreste fare causa, ma questo non è possibile perché siete sempre sulla stessa barca, siete tutte e due Stato. Perfetto. Una situazione grottesca. Grottesca. Da questa situazione grottesca... Chi ci rimette sono i ragazzi. Che cosa sta succedendo in questo momento? Ci rimettono, secondo me, i ragazzi, gli insegnanti, le famiglie. Perché? Come state gestendo la situazione? Ci sono i soldi per la carta igienica, per i corsi di recupero, per le attività al pomeriggio, i laboratori? Alla carta igienica ancora ci siamo. Quello che sta succedendo, per così dire, è più complicato. È successo, di fatto, che i 55.000 euro della maturità sono serviti a pagare le supplenze di febbraio, marzo, aprile. Ma una delle cose che si potrebbe fare qual è? Continuare a nominare i supplenti, avvertendo i supplenti che noi li nominiamo ma non li pagheremo e indicando loro la strada del contenzioso. Cioè, noi scuola non possiamo fare causa allo Stato, ma i singoli, che sono terzi, possono. E il Ministero i contenziosi li paga, cioè il Ministero rischia di perdere una infinità di cause in questa maniera. E d'altra parte i dirigenti scolastici in qualche modo si devono salvare. Senta, lei si sente un po' un prestigiatore, insomma, muoversi fra questi conti, spostare fondi da un posto all'altro per poter tamponare un no. po' le emergenze? Sicuramente un pochino un prestigiatore mi sento. Stiamo imparando da grandi prestigiatori che spostano miliardi di dollari da una parte all'altra, per cui noi facciamo ancora piccole cose. Senta, lei è scoraggiato? No, io non sono scoraggiato perché i ragazzi sono una risorsa e finché ci sono loro vale la pena di esserci. Io sono arrabbiato. Un'altra scuola, altro mago del bilancio. Istituto comprensivo Paolo Sarpi di Settimo Milanese, alle porte di Milano. La vicepreside Giovanna Lavanco. Quest'anno ci siamo trovati in forte difficoltà economiche perché avevamo un credito dello Stato di 190.000 euro. E il top è stato che non avevamo i fondi per pagare i supplenti, per cui ci sono stati dei colleghi che hanno lavorato gratuitamente senza percepire lo stipendio per qualche mese. Praticamente non avete chiamato più i supplenti? No, non li abbiamo più pagati perché non c'erano fondi. Abbiamo cercato di mandare avanti la scuola con contributi dei genitori raccolti appunto durante le feste così e con dei contributi da parte dell'amministrazione comunale. Recentemente è arrivata una tranche di denaro, diciamo 67.000 euro, per cui abbiamo cercato di sopperire tutto quello che si poteva fare, però ancora avanziamo un sacco di soldi dallo Stato. La scuola sta ormai finendo, fra qualche giorno Si chiude battente, Con quale prospettive si riaprono però questi battenti e questi cancelli della scuola poi a settembre? Non lo sappiamo ancora perché intanto vabbè, è arrivato l'organico, ci hanno tagliato 3 cattedre di lettere, di italiano. Per il resto hanno un po' ridotto delle ore di educazione artistica, di educazione musicale, di educazione tecnica, di educazione fisica, quindi l'inizio dell'anno scolastico sarà tutto da vedere, da risistemare. Ridotte le ore vuol dire appunto non ci sono soldi per queste applicazioni, quindi si fanno meno ore. Sostanzialmente sono saltate le compresenze. Quindi il doppio docente in qualche ora in classe, che per noi era una risorsa perché permetteva per esempio di dividere le classi in piccoli gruppi e portare i ragazzi in laboratorio, quindi un conto è andare in laboratorio di scienze con 25 persone, un conto è andare in laboratorio di scienze con 12-13 persone. Quindi addio laboratori il prossimo anno. Sostanzialmente sì, perché per esempio per i laboratori di informatica cioè, e noi al massimo abbiamo 12 computer, quindi portarne 25 diventa problematico. Perché bisognerebbe avere 48 occhi per guardarli tutti, per curare certo. Che nessuno combini dei disastri. E poi con 12 postazioni che ci stanno a fare 25 ragazzi, manco ci entreranno probabilmente. Uno lavora, l'altro guarda, infatti è proprio quello il problema. E anche meno ore di musica ho sentito. Sì, qualcuna è saltata, cioè sono quelle ore che ci permettevano per esempio di fare le attività pomeridiane. E perché non ci saranno più dal prossimo anno? Perché appunto sono previste soltanto le ore in classe, cioè le ore curricolari. Alla faccia dei tanti progetti sbandierati delle scuole aperte al pomeriggio. Esatto, esattamente. Qui invece non siamo nell'arena di un circo, ma su un palcoscenico. Non ci sono maghi, ma attori. Sentiamo perché dalla preside della scuola media Alighieri di Volpiano, in provincia di Torino, Maria Costantino. Giovedì 11 gli insegnanti e la sottoscritta si esibiranno in una versione, una rivisitazione di Bernarda Alba di García Lorca. Come mai? Siete degli attori dilettanti, insomma fate dei corsi, vi piace molto il teatro o ci sono delle necessità di fondo che vi costringono un po' a fare questo? Guardi, a noi piace il teatro e in particolare se possiamo recuperare anche un po' di soldini proprio per poter attivare ulteriormente dei laboratori nella scuola, noi siamo perfettamente contenti. Insomma, con questo spettacolo tirerete su un po' di soldi, perché in questo periodo la vostra scuola forse ha bisogno di qualche soldino in più per i laboratori, perché sono a rischio? A rischio, diciamo che con la nuova riforma Gelmini non c'è più l'idea del laboratorio, perché comunque ci sono più lezioni frontali. Per cui il problema si è risolto da solo, insomma, ecco, in qualche modo. Però nel frattempo, visto che la scuola è aperta al territorio, deve essere aperta al territorio, allora abbiamo intenzione di ampliare la nostra offerta formativa anche nei pomeriggi in cui non ci sarà attività didattica, la normale attività didattica, e di conseguenza pensiamo proprio di recuperare un po' chiedendo comunque dei soldi alle famiglie. e dall'altra comunque recuperando in qualche modo qualche soldino per poter aiutare quei ragazzi in difficoltà economiche. Cioè il senso è che comunque i laboratori al pomeriggio ormai non sono più previsti. No. Se li volete istituire, volete continuare a farli esistere, dovete tirar su dei soldi e lo fate anche attraverso questo spettacolo, no? Certo, certo. Come sono messe le casse della sua scuola? Ma diciamo abbastanza bene. Allora i ragazzi non portano la carta igienica da casa? No, la carta igienica noi gliela diamo. Lei che cosa ne pensa di questa affermazione della Gelmini che dice i presidi piangono, ma in realtà sono solo pochi presidi politicizzati, in realtà che insomma piangono miseria, ecco. Ma io dico che forse è un'affermazione un po' forte, anche perché cioè, o siamo tutti politicizzati perché piangiamo un po' tutti, ecco. È tutto, ci risentiamo sabato prossimo alle 12:45.